Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Mi capita talvolta di abbioccarmi durante i miei viaggi in treno. Mi capita di svegliarmi con la sgradevole sensazione dell'autorussaggio, cioè mi accorgo che sto russando. Apro gli occhi, fingo di tossire, fingo che hanno dei singulti dati da ben altra sollecitazione che quella di un sonno improvviso. Ma mi capitò però di vedere russare una ragazza, tenera, delicata, eterea, pallida, vestita da educanda, con la bocca aperta, russava, come se avesse un otre in bocca. Chissà perché. Cosa avrà fiaccato quella donna? Quale livello di stanchezza così acuto la rese così sgradevole? Non posso fare a meno di domandare. Oh, ti rivedo in treno e ti vedo particolarmente nervosa. Vedi che non ho dormito. Perché non hai dormito? No, non ho dormito perché ho passato tutta la notte ad ascoltare le vicine. Cioè, a ascoltare con cosa? Con attrezzature di spionaggio? No, purtroppo no. Purtroppo il nostro appartamento era un unico appartamento che poi è stato diviso con delle pareti, non framezzato, so, di cartongesso. Quindi ho passato tutta la notte ad ascoltare i programmi televisivi che hanno ascoltato loro, ad ascoltare le loro discussioni. Ma le conosci chi sono? È una mamma con due figlie, 18 anni, una di 18, una di 20. Piccole donne crescono. Ma che piccole donne, sono dell'età marrone. Che non, e il padre non esiste. Il padre non esiste, passano tutto il tempo a litigare tra loro, a guardare le trasmissioni televisive fino alle 4 del mattino. Tutte e tre insieme a guardare la televisione? Almeno poi. Ma sì, poi sì, tutte nella stanza accanto alla mia. C'è coesione familiare. C'è coesione familiare. E no, non riesco più a fare niente perché sento tutto, cioè sento loro che fanno: ah, allora noi andiamo a pranzo. Allora io ogni tanto gli parlo per fargli capire che sento tutto anch'io, no? Gli faccio: ah, vengo anch'io, che avete cucinato? E loro però non rispondono. Forse a senso unico, insonorizzata. No, loro sono sicura che sentano anche me. Che quando mi sono trasferita là è venuta la madre e mi fa: ah, sai che dalla tua camera da letto io sento tutto. Come a dire, cioè, quando tu non scopare troppo, quando no? Gemi di piacere, esatto, sotto il dardo di fuoco del tuo fidanzato, loro ti sentono. E io ho detto: vabbè, ok, vabbè, farò, cioè, sono sempre silenziosa. Poi invece e lui ho non scoperto e lui non può nemmeno. Ma tanto lui non. Lui ogni tanto fa dei rumori intestinali a notte, succede. No, succede, è chiaro. Non lo so perché. È per quello che hanno detto. Beh, vedi, tu non ti svegli da così. Ma lui tanto non. Cioè, abita in un'altra città, quindi sono poche le notti. Le poche volte che viene, ti dedicherà qualche minuto. Qualche minuto. Sempre molto piacere. Però per quei pochi istanti io ti senti passo in colpa, per quei 30 secondi di passione. Vabbè. No, non mi sento in colpa se lo meritano. Tu avrai 30 secondi di singulti, loro avranno 6 ore di televisione. No, ma è di urla. Quindi io ogni tanto, per ricordargli che comunque io sto sentendo tutto, quando sento che c'è un momento in cui non parlano e c'è un po' di silenzio in casa, no, io faccio delle finte telefonate per fargli sentire come forse si tu sente. Non hai capito, loro gliene importa una mazza. E quindi comincio a fare: sono stanca, o dico che sto andando a dormire, che sono stanca. Che gli frega giro loro per casa da sola telefonando. Ma secondo me sono di quei coatti che strillano sempre, cioè hanno anche l'udito abbassato, strillano perché sentono poco. No, è terribile. Stamattina mi hanno svegliato poi alle 8 perché evidentemente una delle ragazze non è andata a scuola, ha fatto sega. Ma quindi sono piccole? No, è che sono bocciate tutte. Una sono 4 anni. 20 anni. Sì, una è 4 anni che rifà lo stesso anno. Ma la madre il giorno che fa lavora? La madre va al lavoro, però c'è anche il cagnolino. Cioè quando non ci sono loro e c'è silenzio, ci sono 2 chihuahua che fanno Sono quelle che girano col chihuahua nella borsetta. Esatto, però quando non sono a casa li lasciano lì. E le chihuahua, Paris Hilton 30 anni dopo. I chihuahua si appostano proprio nell'angolo di casa che confina con la mia camera da letto. Tu puoi fare un buco del cartongesso, provaci. non dicevo di poi di avere rapporti intimi con i cani, però ci metti dentro, ne so, bombolette puzzolenti. Una polpetta. Però il gloriol col chihuahua, se il framezzo, come dici te, è abbastanza piccolo, può starci. No, non so più cosa fare. Che ti devo dire? Niente. Quindi aumenta le tue serate emotive, così magari dai fastidio a loro. Ci sto provando a dargli fastidio. Lo so, però vanno fatte in due, saranno dei problemi. Poi adesso c'è anche la nonna sorda. Ecco. E anziana, che si è trasferita e la da nonna loro. Che fa? Che rumori fa la nonna? La nonna fa il rumore delle televendite da. C'ha sempre la televisione accesa. Sì, le tele. E non puoi mettere un pannello insonorizzante alla infatti costano sono cari. No, allora ho scoperto che con 350 euro posso insonorizzare almeno la parete della mia stanza. Ti prendono in giro? Ma credimi, ho esperienza in questo, costa molto di più una parete. Ma a me, io non voglio insonorizzare, devi fare una cosa seria. Una cosa seria è un pannello molto costoso. A me basta che basta non sentire tutto. Non è che devo essere totalmente insonorizzata. Basta sentire un eco lontano. Ma io sento proprio loro che dicono: allora oggi cuciniamo questo. Ti rubi almeno 15 centimetri di spazio e puoi fare una cosa importante. Però è un bel lavoro, è un lavoro impegnativo e costoso. Non lo so, intanto tanto è solo una parete quella che vi comunica. No, sono tre. Però almeno quella. Tutta la casa è frammezzata con loro. Sì. Però cioè almeno la camera da letto vorrei. Ma tu questa cosa quando hai preso casa in affitto non te ne sei accorto? E come lo sai? Io ho visto la casa che loro non c'erano perché è una servitù forte questa. Sono andata a visitare la casa che loro erano al lavoro. Quindi questo ha diviso la casa in due e ne affitta due appartamenti al posto di uno. No, l'ho comprata. Ah, l'hai comprata? Sì. Ah, quindi è casa tua? Sì. E sei fottuta vita? No, però loro sono in affitto. Ma tanto van via loro, vien qualcun altro. Lo so. Ma tu compri la casa, no, ti fai fare da un architetto un'analisi? Cioè che c'era una parete finta, lo potevi vedere. Ma che ne so. Beh, non ci ho pensato. No, se è casa tua, devi fare tutte e tre le pareti. E ti ci vorranno 5.000 euro minimo. Vabbè. E questo, no, credi, questo è il preventivo. Vabbè, figlia mia, fatti una ragione. Fatti un sonnellino qui in treno se vuoi. Ti sveglio io quando arrivi alla tua stazione. Ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Devo dire che ho trovato una nuova maniera per passare il tempo del mio eterno viaggiare in treno. Cercare di capire e individuare le origini dei miei compagni di viaggio guardando il cartoccetto della loro colazione, del loro pranzo, del loro spuntino. Sì, perché non è che tutti vadano al bar, al vagone ristorante o si mangiano i panini che passano nei vagoni privilegiati in cui viene passata una sorta di refezione uguale per tutti, dolce o salato. Beh no, la ragazza bella e appariscente che vedo due file avanti ha tirato fuori il suo bel cartoccetto e vedo qualcosa che assomiglia a dei pasticciotti con la crema dentro, che a me piacciono molto, sono dolci tipici pugliesi. Andando avanti, non ho dubbi quando vedo la burratina che se la prende dal contenitore e se la mangia felice e contenta. Quindi l'ho individuata, quindi l'ho localizzata. Immagino salentina probabilmente, qualcosa del genere, se non proprio salentina perlomeno pugliese. Perché? Perché è normale, da quello che mangia, da quello che si porta come ricordo della sua terra lontana. Mi avvicino, la guardo meglio, devo dire che è una donna che è abituata ad essere guardata e posso anche capire perché. Ha dei jeans di quelli che oggi vanno molto, con grandi aperture, degli squarci, degli strappi, delle strategiche aperture sotto le quali si vede le calze a rete. Indossare le calze sotto i jeans strappati, delle calze a rete, poi che meriterebbero ben altra esposizione, sono elementi sufficienti perché attacchi a parlarci. Da dove vieni? Io vengo dalla Puglia. precisamente da Mola di Bari, quindi dal mare. E casa mia è esattamente a 2 metri dal mare. Poi te ne sei andata da casa, come mai? Sono andata via perché la visione solo delle meraviglie pugliesi a volte non è sufficiente. Cioè quindi... ne potevi più? No, ne voglio ancora, solo che chiaramente l'ambizione o comunque la voglia di realizzarsi in quello che è la tua passione prende il sopravvento. Metti caso che tu fossi restata al paesello, come sì. per te ha sperato tua madre, tua nonna, tua zia, che avresti fatto? Beh, sicuramente come tutte le buone famiglie pugliesi immaginano che la propria figlia femmina si sposi, abbia i figli e quindi si occupi del marito e della... E anche dei genitori quando sono vecchi, assolutamente. Quindi fa sì. la serva ai genitori, la serva al marito. Sì, sì, assolutamente non è cambiato niente da questo punto di vista. Le dinamiche sono le medesime anche oggi. E come tu ti sei allontanata, è stata lontana dei periodi da casa. Sì. E tua mamma ti chiamava, allora cerca di capire, sapere... Sì, sì, sì, diverse volte. Poi ha smesso, in realtà perché io sono fuori casa da diverso tempo, poi a un certo punto ha smesso di chiamarmi perché comunque ero la figlia un po' la pecora nera, insomma, della... Cioè gli hai spezzato il cuore? Assolutamente sì, gli ho spezzato il cuore, però poi adesso stiamo recuperando un po' il rapporto. Se n'è fatta una ragione. Se n'è fatta una ragione. Ma c'hai altre sorelle? Sì, ho una sorella che ha invece generato 4 figli. Quindi cioè è riuscita, hai investito tutto in tua sorella? Sì. Ti ha mai proposto qualche farlocco del paese, un bravo ragazzo, amico di un'amica? Certo, assolutamente, questo ci ha provato sempre. In tutti i modi, sempre. E com'erano questi tipi? Davvero noiosi, in verità. Molto noiosissimi, molto scontati, molto... Le madri di mezzo, di riuscite, le madri. Vedetevi. Poi c'è ancora il discorso della dote da noi. Ah sì? Cioè sì, siamo nel 2016. Tu ce l'hai corredo col tutto? Allora sì, allora no, in realtà non mi è rimasto niente perché l'hai venduta? No, in realtà se l'è venduto mia madre. Beh, tanto ormai ha capito che non ti sposi. No, perché praticamente lei inizialmente ha comprato tutte le lenzuola ricamate, le tovaglie. Tutto da quanto? Da 4, da 3, da 2? Sì, esattamente, anche da 12. Anche alcune, da 12. Sì, sì, soprattutto le tovaglie ricamate. E poi nel momento in cui le lenzuola... La camicia da notte per la prima notte. No, il piumone. Cioè, a Mola, cioè, che fa un freddo. Un freddo pazzesco. Nel momento in cui ha capito che, insomma, non ci sarebbero state speranze in tal senso, le ha date un po' a mia sorella, un po' le ha usate lei. E... Fine del corredo, fine di un sogno. E credo che le abbia anche regalate ai figli degli altri. Come tua madre cosa immagina? Tu fai l'artista, c'è la chitarra, suoni. Che vita fai? Cosa puoi immaginare? Non vuole manco pensarci. No, no, no, in realtà adesso viene ai miei spettacoli, a teatro, e lei è la prima che paga il biglietto. L'unica? No, grazie a Dio, no, non l'unica. No, che ne so. Però la cosa bella è che, sai, solitamente dei teatri lasci il biglietto gratuito, omaggio a tua madre. E la mamma paga. Invece lei è la prima che dice... Contribuisce al... Sì, sì. Al tuo necessario sostentamento. Esattamente, sì, sì. Grazie. Con tua sorella che rapporto hai? Molto bella, in verità, strano dirsi, ma sono un grande esempio per i miei nipoti. Comunque tua sorella si è sacrificata per te, lo sai? No, no, l'ha fatto con grande piacere, però appunto ha portato il lavoro dei bambini avanti per me anche, cioè nel senso che ha prodotto gli eredi al posto mio, insomma, quindi stai a posto. Sto a posto. Vabbè, quindi ha fatto un sacrificio. Assolutamente. Poteva anche lei girare il mondo, conoscere... No, lei l'ha girato in parte, anche una... È stata Molfetta. A Molfetta, no, non certo. So, no, no, no, nel senso che anche lei è un ingegnere elettronico, per cui comunque una donna in carriera. Sì, però mi dai un'informazione importante. Ingegnere elettronico, sì. Quindi donna evoluta. Donna salto evoluta. Generazionale, è caduta nel ricatto materno però. Sì, perché lei ha una passione proprio, è una sua vocazione quella della madre. Di far contenta la madre. No, lei come madre, non è contenta mia madre. Però ti rendi conto, mia madre dopo 4 bambini si è abbastanza esaurita, quindi ha detto basta. Anche perché se li sciroppa lei adesso. Sì, se li è sciroppati, però adesso sono molto indipendenti. Però c'è sempre la speranza di una figlia che penserà a noi quando siamo vecchi. Certo, assolutamente. Che sì. Si lamenterà continuamente, sono vecchia, non ce la faccio più. Sì, già inizia a farlo, già comincia. C'era 50 anni, domande quanto c'ha? Ne ha 71. Ah, vabbè, comunque. È una giovincella. Ma qua è lontana essere vecchio. No, no, sta benissimo. Lei guida la macchina, viaggia, è abbastanza autonoma. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. Ecco, adesso il lato segreto della tua vita che non puoi raccontare a tua madre. Quindi tu ti sei buttata nel rutilante mondo dello spettacolo. Sì. Sarai scesa degli infami compromessi. No, no, è per quello che non ancora valigia, nessuno mi conosce. C'è la valigia di cartone, sì, per quello. Esatto. Se no, Louis Vuitton firmato. Esatto. Vera, sì, non sì, quelle sì, che vendono. No, no, no, no, no, no, assolutamente. Sì, in realtà appunto a Roma sono già arrivata 8 anni fa e per mantenermi ho fatto ovviamente tutti i lavori più svariati. Tipo? Allora, in realtà ho fatto sia la ragazza immagine, perché a 20 anni insomma ci potevo ancora cosa, farlo. Cosa immagina? Cosa facevi immaginare? Immagine, nel senso la hostess, oppure ragazza immagine in discoteca, nei locali. Vabbè. E poi l'accompagnatrice turistica. Quindi mi sono studiata tutta Roma e portavo i gruppi. Vabbè, comunque di questo è, diciamo, il lavoro necessario a mantenere. Necessario a mantenere la vena artistica. Esattamente, proprio per non dipendere da nessuno, insomma. Vabbè, però questa deve essere orgogliosa. Sì, sì, no, sono solo che chiaramente questo lavoro poi è diventato piuttosto impegnativo, per cui ho dovuto un po' trascurare casting, provini, quindi anche relazioni dal punto di vista artistico. Ma ce la fai a mantenerti, questo è importante? Sì, sì. Ti mantieni? Sì, sì, assolutamente. Quindi è un lavoro dignitoso, scusa. Sì, sì, ma io mi mantengo, diciamo che dal teatro poi sono passata alla musica, perché in realtà mi mantengo grazie alla musica. La musica è più facile guadagnare. Sì, guadagnare sì. Però fai concerti, serate. Sì, sì, sì. Faccio serate, creo eventi e praticamente poi li propongo agli enti pubblici e quindi. Però c'è l'aria un po' da nomade, te, di una persona che non sta ferma in un posto. No, sono un po' gitana. Sì, sì, sì, molto gitana. Quindi molto spesso preferisco alla comodità la mia valigia di cartone. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Quant'è il tuo tempo massimo di permanenza in un posto? Sono riuscita ad arrivare a 3 mesi e ho sofferto. Dopo 3 mesi rischiavo cambi. La depressione, sì. Quindi non allacci mai relazioni stabili? Sì, sì, sì, sì. E dove li lasci? Riesco a mantenerle. 3 mesi? No, 3 mesi, nel senso poi ritorno. Cioè, l'importante è che comunque mi sapere creo la che mia... qualcuno ti ama da qualche parte. Sì, esatto. Come marinai. Come marinai. Sì. No, comunque sono ho poche relazioni, ma davvero. E comunque mi apro alla conoscenza anche dell'altro in diversi posti del mondo. Cioè, che vuol dire diversi posti del mondo? Mi piace proprio viaggiare, insomma, sono riuscita comunque a viaggiare per mezzo mondo e mi sento a casa ovunque, ma in realtà stranamente non a casa mia. Ma quando viaggi come ti mantieni? Cantando, suonando? Cantando, sì, sì. Sì, riesco a... Quindi tu sei, diciamo, eclettica. Tu vai, che ti proponi, suoni... Mi propongo, sì. Non funziona? Non ho nessun tipo di problema... Nel propormi e quindi riesco comunque a... Ma tu riesci anche da sola a far qualcosa, cantare, suonare, o c'è bisogno sempre di un accompagnamento? Preferisco sempre l'accompagnamento perché comunque un po' mi sento sicuramente protetta. Lo trovi sul posto, come fai? Anche. No, ma sono curioso a capire. Sì, sì, sì, sì, anche. Cioè, nei momenti in cui viaggio da sola comunque riesco a interfacciarmi, anche perché grazie comunque a internet, Facebook, ma quindi è una buona rete, media. Dove vai? Sai che c'è che puoi costruire un gruppo per lavorare un Devo dire che i social media aiutano tantissimo in tal senso per riorganizzarsi il lavoro. Ecco, dammi un esempio. Questa è la startup romana numero 2. Tu arrivi a Roma, sì. Valigina di cartone, che fai? Qual è il primo passo? Come si fa a organizzarsi, diciamo, una permanenza che sarà 2 o 3 mesi anche questa volta? Dove dormi innanzitutto? Allora, al momento dormo in... Alla Caritas. No, alla Caritas no. In realtà dietro San Pietro ho trovato un alloggio, un bed and breakfast. Di preti? Assolutamente, però chiaramente loro lo usano come alloggio, insomma, per i turisti. Ci portano per i pellegrini. E... Sei finta pellegrina? Sì, sono. Beh, non è c'è proprio l'aria da pellegrina. Sono l'aria da pellegrina. Beh, assolutamente. Molto, no. E sono lì e quindi per qualche giorno nel frattempo sto chiedendo amici, ma quanto parenti. C'ha quanto c'ha di autonomia, diciamo? Proprio voglio capire l'organizzazione. Quanto una settimana ce la fai a mantenere? Sì. E tu in questa settimana hai trovato un lavoro, Esattamente. E come si lavora, come si procede? Allora, procedo che, visto che il mio precedente lavoro trattava di turismo e quindi sono abbastanza ferrata in quel campo. Però sai, c'è un racket a Roma terribile. Assolutamente, cioè non entri. Sì, se non conosci. Sì. E comunque chiaramente devi procedere verso agenzie, quindi quelle che già conoscevo li sto ricontattando. Quindi tu ricostruisci questo modello, sì. Diciamo, un lavoro sicuro, non necessariamente artistico, non necessariamente per il quotidiano. Artistico, sì. E poi dopo ti produci nelle cose che più ti danno soddisfazione. In modo tale da non buttarmi in qualsiasi cosa artistica. Però intelligente. Quanti giorni ci vogliono per riuscire a stabilizzarsi, secondo te? Fai una previsione. In quanto ti stabilizzerai a Roma? Guarda, io sono molto positiva, per cui nel senso che posso anche, immagino sempre che dietro l'angolo c'è comunque la mia opportunità e riesco anche a trovare casa tipo oggi. Nemmeno sei arrivata, già parli la radio. Scusa. Infatti. No, parli la radio nazionale, nemmeno sei arrivata alla stazione. C'è incredibile. No, incredibile. No, no, è Radio 24 poi è la mia radio. Sì, adesso c'è bisogno, ti allarghi. Potevo chiamare la vecchia che sta seduta vicino a te e nessuno ti avrebbe mai sentito. Nella maniera più assoluta. Però questo è già un passo avanti, sì. Sì, infatti è una grossa opportunità e sono felicissima. Mi riempie di gioia e ancora di ulteriore positività questa cosa. Ma tu hai un repertorio, hai fatto dischi, c'è musica tua in rete? Sì, sì, sì, c'è musica mia in rete. In realtà l'unico CD... No, ferma un attimo. Adesso la farò dopo, la farò sentire la musica. Sì. Facciamo finta me la fai lì per lì. Mi racconti qualcosa, mi parli di cosa fai. Ad esempio, allora, raccontami del tuo repertorio. Voglio capire qualcosa che fai. Metti caso che io sia l'infame produttore che dovrai incontrare prima o poi e sarai sottoposta a una delle più umilianti mortificazioni, perché sarà lì pronto a aspettarti alla stazione Termini col suo vestito bianco, col suo anello finto d'oro, con la sua dentiera, con le sue unghie gialle, col mignolo lungo, con la sua pasticca presa a tempo, ci avrà 3 ore di tempo, quindi è lì che aspetta. Questo passaggio necessario e mortificante ti potrà far qualcosa. Ma se tu dovessi adesso produrti, cosa proporresti come tuo cavallo di battaglia? Allora, io ho un bellissimo progetto che vorrei tanto produrre, che è la contaminazione della musica popolare, però già rieditata, con pugliese assolutamente. Quindi, di cosa parliamo? Con folk pugliese. Folk dalla taranta alla pizzica, però non la classica, perché con la mia formazione l'abbiamo già letta, sì, rieditata in qualche modo. Ma la fanno anche i cinesi pure fanno la pizzica. Assolutamente, loro vanno pazzi, c'è un mercato pazzesco, c'è un mercato pazzesco. No, però ci sono diverse sfumature e diverse sonorità ancora da riscoprire con l'integrazione dei tamburi giapponesi, del taiko. Anche tamburi giapponesi e tamburello della pizza. Sì. Fantastico. E devo dire che con un fusion nippo-pugliese. E anche con un flauto, il flautista che ho è bravissimo. E siamo riusciti a ricreare davvero delle atmosfere improbabili, per cui anche noi sperimentiamo delle volte e non sappiamo neanche cosa può uscire. Tu stai, canti o suoni? Allora, io canto e suono le castagnette e a volte la chitarra. Vabbè, la castagnetta è un classico. Cos'è? Le castagnette sono le nacchere. Ah, le nacchere. Le da castagnette. Noi si chiamano castagnette. Ah, beh, beh. Sì, è per tipicizzare anche ogni strumento. Così, non sei una violinista, una castagnettista? Come... No, non lo so, non me lo sono mai posto. Se uno ti dice qual è la tua specialità, la castagnettista. Sei una castagnettista. Una castagnara. Ma i tamburi li suona un giapponese o li suona un pugliese? Cioè, ho il mio tamburellista allora sono 6 tamburellisti giapponesi. E dove hai trovato i tamburellisti giapponesi? A Putignano. E che ci fanno i giapponesi a Putignano? In realtà è una formazione appunto italiana. Ah, sono italiani. E il leader di questa formazione è stato per diverso tempo in Oriente. Ma si truccano da giapponesi, come fanno? No, si mettono una loro divisa, un kimono tuta arancione più o meno. Sembra quelli che fanno gli equilibristi sui finti pali. Sì. A Piazza del Popolo. No, però sono davvero bravissimi e il leader di questo gruppo appunto è stato diversi anni in Giappone e quindi si è appassionato. Fa finta di fare giapponese. Esatto, mi piace. E devo dire che abbiamo avuto degli ottimi riscontri. E questi poi te li porti a Roma, giapponesi, pugliesi? Sto tentando, guarda, sono venuta anche a Roma per vendermi, lasciami dire, passare questo termine, sei questo progetto. Sei venuta a Roma per venderti? È una no, vendere questo progetto. Tu, no, tu vieni a Roma sperando di vendere un progetto fatto da sì. pugliesi travestiti da giapponesi che suonano la musica della taranta, quei tamburi giapponesi. Esatto. Vabbè, può essere che funzioni. Può essere, sì. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va, non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Avrai un momentaccio, lo sai, sì. quando incontrerai quel signore anziano con le unghie gialle. Devo dire che comunque sono abbastanza matura, non sono insomma... Sì, ma la storia è sempre quella, dai. Sì, la storia è sempre quante quella. Quante volte ti è successo? Ti hanno proposto? Da 1 a 100? 70? 200. Davvero? Sì, sempre sì, uguale? Sì, sempre non cambia uguale. Mai quella cosa? No. Per cosa dico? Facciamo un provino, facciamo una scena, tentiamo. Ma perché? No, ancora prima. Come fanno? Ancora prima di firmare qualsiasi contratto. Beh, certo, dopo. Nel senso, chiaramente, per cui è chiaro che... O me la dai o scendi. No, e la bravura davvero di un attore o di un'attrice sta nel, chiaramente, insomma, ecco, di essere abbastanza professionisti. Dai un consiglio a una tua sprovveduta collega. Accadrà questo momento che qualcuno ti fa la prova del divano, come sì. ci si comporta? Perché buttare sempre via tutto? Allora, no, la cosa importante, nonostante tutto, nonostante anche i reality che fanno credere che una persona può arrivare al successo sì, senza figura. Preparazione, però per chi vuole affrontare il mondo sia del teatro, comunque della musica, sicuramente partire dalla propria preparazione. Studiare sempre. La base. Perché quando si studia e si capisce anche, aiuta ad avere maggiore consapevolezza di se stessi, e questa è la cosa fondamentale ed importante. Da lì poi puoi partire e muoverti con intelligenza. Sì, però una volta che sei sullo zozzo divano conta poco. Quindi bisogna, cosa bisogna? Illudere, firmare e poi quello andare. È un classico. Poi bisogna, dopo che appunto impari la tua arte, ogni donna deve anche imparare a l'arte metterla, della seduzione. A metterla da parte. A metterla da parte e soprattutto appunto la classica arte di far credere che gliela dai ma non gliela devi ma dare. Ma che sono dei furbastri, figurati, in no, però bisogna essere assolutamente abili. Ancora quindi, ci si può, ce la si può fare. Promettere, ci vediamo a cena, sia sì, oggi, domani. Sì, assolutamente. E poi spingere sempre il discorso del contratto. Firma. Nel momento in cui si firma è fatta. Comunque diciamo, i più tenaci, più infami non te lo fanno firmare manco morti se prima non... Sì, assolutamente. Manco dopo molte volte. Lì devi proprio invece essere molto più scaltra e giocare su altri livelli, ecco. Una volta firmato gli fai un pernacchione e scappi via. Ma nella maniera più assoluta sì. Sì. Poi se lo merita, sono proprio infame. No, alcuni sì, ma soprattutto mai credere a chi millanta. Chi ci ascolta, ci sono un sacco di millantatori e, beh, la rete aiuta in questo. Tu verifichi sì. il nome, vedi. Adesso dici. Sempre verificare con chi parli. Io sono il padrone di 100 teatri di Roma. Però ti assicuro che ci sono ancora diverse attrici e diverse ragazze che conosco Che ci cascano, ma soprattutto non si informano. Quindi in un'epoca dove internet ormai è invaso la nostra quotidianità, c'è ancora tantissima gente, ma gente di 20 anni, che ancora non, vabbè, che esiste non tutto, prende le giuste precauzioni. Tutto un sottobosco che vive nelle periferie dei luoghi dove vanno artisti, che dicono io conosco, ti esattamente. Faccio... Esattamente. Tempi di bellissima, Walter Chiari con Anna Magnani, sì. che la porta sul greto della Marrana del Tevere, perché dice che gli fa conoscere chi potrebbe fare il provino alla figlia, cioè roba vecchia. È roba vecchia, ma attualissima, e soprattutto non stiamo parlando né di Anna Magnani né di Walter. Lo so. Tutto. E quindi... Vabbè, in bocca al lupo, io scendo veramente. Spero ti vada bene. Grazie Gianluca, ciao, grazie. Cara, ciao. Il treno va. L'audiolettera che mi è arrivata oggi mi ha fatto molto soffrire. Non so se è stata scritta con intento sadico, con intento di volermi ferire. È stata scritta per fustigare la mia vanagloria, per azzerare la mia autostima. Comunque è stata scritta da una donna e spero che non sia la donna che mi aspetta alla fine del mio viaggio. È una donna mediamente giovane, oggi si direbbe una ragazza, che mi parla delle sue esperienze amorose. Mi parla senza citarmi, ma naturalmente allude alla mia esistenza in maniera molto pesante e per me veramente dolorosa. Ciao Gianluca, ho 33 anni, sono una ex impiegata delle risorse umane e segretaria moribonda di noia che a un certo punto ha deciso di mollare tutto e ricominciare da zero. Mi sono iscritta ad un corso di laurea triennale insieme a giovanissimi, ragazzi e ragazze di 10 anni più giovani di me, e sono diventata graphic designer. E nel momento in cui le mie coetanee si trovavano a confrontarsi uscite dall'ambiente universitario con le generazioni più avanti negli anni, io mi sono ritrovata a frequentare soltanto giovanissimi. Nella mia città di origine, persi quasi tutti i contatti, sono casualmente rimasta legata ad altre Peter Pan, che per dichiarata vocazione frequentavano soltanto, anche per storie sentimentali, ragazzi più giovani. Ho ascoltato molte puntate del Treno Va e sento sempre più spesso ribadire la tiritera che l'uomo deve essere molto più vecchio della donna che frequenta. Per me è una vecchia tiritera perché mio padre ha 15 anni più di mia madre e in famiglia martellano tutti con questa storia da che ho orecchie per sentire discorsi riguardo i rapporti uomo-donna. Sono una persona umile e quindi registro l'informazione e me la porto nel mondo, osservando ciò che mi circonda e cercando di capire se ciò corrisponde al vero. In realtà, tra le mie amiche, quella che ha la relazione con l'uomo più grande sono io e lui ha solo 5 anni più di me. Non mi è mai riuscito di trovare attraente un uomo più vecchio di così. Li guardo, Tutti mi dite che devo farlo. Così mi porto avanti per quando il mio attuale mi abbandonerà all'autogrill stufo delle mie chiacchiere e io dovrò fare gli occhi dolci a qualche signore canuto per essere degnata di quegli sguardi di ammirazione imprescindibili per l'autostima femminile. Ma molto spesso vedo denti ingialliti, gengive ritirate, ombre di capelli, spalle cadenti, braccini flaccidi, pelli spessite e ingrigite dalle luci fiacche degli uffici. Non solo. Tali signori non mi filano proprio. E anzi, molto più spesso invece vengo adocchiata da ragazzi giovanissimi. Il collega 24enne, che mi chiedo cosa abbia fumato la mattina prima di venire in ufficio per provarci con me. L'amico dell'amico 27enne e il suo rivale per pura competizione. E poi, di che cosa potrei parlare con tali signori? Col mio attuale compagno vado ai concerti e facciamo i cretini sotto il palco e vedo i suoi occhi pieni di stelline e il suo sorriso ebete quando si emoziona perché ho condiviso con lui quei momenti sciocchi e divertenti. Programmo trekking in Patagonia, costruisco divani coi bancali e produco impiastri nelle nostre cucine incasinate. Ed ecco la parte della lettera che maggiormente mi fa soffrire, quella in cui fa la descrizione reale, senza lasciare nulla all'immaginazione e senza concedere nulla alla parsimonia della crudeltà di quello che è l'uomo attempato, l'uomo con le gengive che si ritirano, l'uomo con soltanto un ricordo dei capelli che aveva, le spalle cadenti, i flaccidi braccini, le pelli spessite e ingrigite delle luci fiacche degli uffici. Siamo noi che abbiamo passato i 60 anni, siamo noi che ancora ci pensiamo essere uomini su piazza, siamo noi che ancora ci illudiamo di avere delle parvenze di attendibilità quando ci guarda una donna. Ebbene, giustamente questa mia ascoltatrice dice: questi uomini le fanno schifo, perché lei può attingere a una classe di uomini ben più giovani, può attingere alla carne fresca e quindi non sa che farsene della carne flaccida. È vero, sembra che lei comunque abbia esperienza di persone attempate. È vero che le persone attempate parlano dei loro figli adolescenti, parlano della loro ipocondria, parlano della loro paura della morte imminente. Coi signori di cosa parlo? Dei problemi che hanno coi loro figli adolescenti? Dell'ipocondria che li coglie al sopraggiungere dei primi segni dell'artrite? Mi sembra di stare in una dimensione parallela in cui lo scenario paventato, donna di 30 anni con un uomo di 50, sia una fantascienza un po' orrorifica e impossibile. Alla fine, un po' spaventata, mi immagino già che tra pochi anni mi ritroverò sola e abbandonata. Ma è possibile che sia l'unico destino immaginabile? Che io debba scegliere o un vecchio, perché a me così appare come ai miei coetanei maschi appare una donna più grande di loro, o niente? Ma cosa fa pensare agli uomini che le donne più giovani li trovino attraenti quando oggettivamente non lo sono più? Mi vergogno quasi a scrivere, per paura del linciaggio generale, che secondo me alla base della scelta dell'uomo maturo da parte di una donna giovane, quindi sicuramente immatura, ci sia una forte insicurezza e una punta di calcolo, proprie di una femminilità non del tutto emancipata. Un segno di mancanza di parità, e non ho detto uguaglianza, sia chiaro, che sarebbe una cosa orribile l'uguaglianza. Visto che in fondo sono un'ingenua, ti ho già servito la risposta cinica su un piatto d'argento. Sono, come le mie amiche, una Peter Pan al femminile, un'esteta che non sta costruendo niente. Mi illuderò, finché avrò questa testolina di adolescente, cioè per sempre, di essere al pari dei maschietti. E da brava ribelle, piuttosto che darmi ad un buon vecchietto che si curi di me finché morte non ci separi, terminata la disponibilità di uomini che io ritengo essere al mio pari, carini e immaturi, e che ovviamente mi lasceranno inesorabilmente una volta sopraggiunta una preda più succulenta, preferirò una svolta saffica alla gerontofilia. O, se non ne sarò capace, la pacifica e cerliera solitudine di chi non si è fatto mancare niente, invece di cercare di accaparrarsi un grigio accompagnatore prima che giungesse la sua data di scadenza. Buon proseguimento di viaggio. Non giudicherò la nostra amica e naturalmente non mi accoderò al coro che lei pensa scontato delle persone che le danno dell'immatura della Peter Pan. No, non è una donna immatura, è una donna che può permettersi di fare delle scelte, può permettersi di frequentare persone a lei più giovani, persone più toniche, persone più spensierate, persone che la trascinano in maniera voluttuosa e fantastica in una fascia d'età che non è più la sua. Può lei illudersi di essere più giovane di quello che è, essendo pur giovanissima. Può lei vivere questa sorta di bel sogno di essere considerata coetanea da persone che sono più giovani di lei. E quindi perché dovrebbe negarsi questo? Perché dovrebbe cercare la solidità dell'esperienza? Perché dovrebbe ricercare il padre perduto, il padre non amato, il padre che l'ha disprezzata nelle fauci dalle gengive ritirate e dai denti ingialliti di uomini più vecchi di lei che parlano dei loro figli adolescenti e della loro paura della morte? Scelta perfetta, scelta ottima, scelta che tutti vorremmo potendo fare. Ma perché, mi domanda, quale sarà poi il suo destino? Il suo destino potrebbe essere quello di sentirsi una volta anche lei guardata con lo sguardo di disprezzo e di schifo di quella che ti conta la lunghezza delle gengive e il nitore dei tuoi denti. E se questo accadesse, si renderà conto che probabilmente molte volte è molto più pietoso sorvolare su quella che è la decadenza fisica di un essere umano e provarlo per apprezzarlo, ad apprezzarlo anche per altre sue doti probabilmente, e non necessariamente ad essere il tuo amante, il tuo accompagnatore, il tuo drudo. Può essere semplicemente anche il compagno di viaggio che ti racconta qualcosa della sua vita. Se lei si accontenta di questo, vivrà felice. Se lei pensa che la carne fresca potrà permettersela per tutta la vita, beh, è ora che cominci a far cadere questa sua illusione.